Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rituali, informazioni di servizio, rapidissimo, il nostro sito radio24.it. Potrete scaricare tutte le puntate, abbonarvi e quindi seguirle via podcast, scaricarle via podcast, dialogare con me nel mio blog Guardie o Ladri, che trovate all'interno del profilo su Radio 24 o sull'home page del Sole 24 Ore. Ultima informazione, la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Mail alla quale si è rivolto un nostro radioascoltatore di Roma, Luciano Vetrano, che fa presente un caso personale, ma che interessa secondo me moltissime persone che in genere hanno un conto corrente presso un istituto di credito o comunque un istituto postale e magari invece conti correnti o mutui accesi presso altri istituti di credito o postali. Quindi io do il buongiorno al nostro radioascoltatore Luciano Vetrano da Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E do il buongiorno ad Alessandro Albano, che è responsabile dei sistemi di pagamento di BancoPosta, e poi vedremo perché e serve la sua figura. Buongiorno, buongiorno Albano. Buongiorno. E alla dottoressa Maria Mercurio, che è responsabile della comunicazione di Barclays Bank. Buongiorno Mercurio. Buongiorno. Ed è proprio Barclays Bank che è un po', come dire, il nocciolo della questione. Allora, dottor Vetrano, può spiegare il caso che lo ha vista protagonista? Molto sinteticamente, decido di cambiare il mio conto corrente per motivi, diciamo, di praticità, passo a BancoPosta. Mi preoccupo di fare tutti i vari trasferimenti delle domiciliazioni, delle bollette, dei RID, tra i quali due mutui che ho in essere con la adesso Barclays, al tempo quando sottoscrivei questi mutui era la banca Woolwich. Per scrupolo verifico che, diciamo, queste attivazioni, queste modifiche delle coordinate bancarie vadano a buon fine, e trovo una sorpresa chiamando il call center della Barclays, dove mi viene annunciato che la domiciliazione presso BancoPosta non viene accettata dalla Barclays perché hanno problemi tecnici di allineamento di RID o cose del genere. Sorpreso, telefono, diciamo, anche a BancoPosta per conferma, e un funzionario mi dice: sì, effettivamente Barclays, unica tra le banche italiane, si rifiuta di domiciliare. Allora, questo mi sono rivolto a voi. Certamente. Allora, io di questo la ringrazio per la pacatezza e, diciamo così, la perfetta esposizione. Queste trasmissioni servono per dialogare e certamente non per creare quella che a Roma si chiama caciara o fare confusione. Siamo qui per parlare. Allora, questa è la denuncia, vale a dire la impossibilità di domiciliare i mutui presso BancoPosta, perché appunto Barclays Bank, unica tra le banche, non lo permette, e il nostro radioascoltatore contatta BancoPosta e BancoPosta dice: sì, effettivamente è così. Allora, andiamo a parlarne con Alessandro Albano, prima di vedere e sentire la voce di Barclays Bank, che è responsabile dei sistemi di pagamento di BancoPosta. Allora, effettivamente è così come denuncia il nostro radioascoltatore, Albano? Ma io questo, dunque, le dico com'è la situazione. Noi abbiamo in questo momento due conti con Barclays Bank, sui quali poi noi versiamo gli importi prelevati con RID che i nostri clienti ci hanno dedicato ad accettare su le carte di credito emesse da Barclays e i prestiti personali. Confermo che in effetti non c'è nessuna richiesta di RID di mutuo. Il perché, sinceramente, questo non glielo so dire, come credo abbiano fatto il RID per le altre due tipo di prodotti, credo che si possa fare anche la stessa cosa per i mutui. Ecco, quindi sostanzialmente diciamo che i rapporti fra BancoPosta e Barclays Bank, per quanto riguarda altri tipi di accreditamenti o addebitamenti, sono perfettamente addebitamenti sono perfettamente scorrevoli e in linea. Per quanto riguarda invece la possibilità di domiciliare presso di voi i mutui, questo invece rimane un, come dire, un punto interrogativo, e comunque non ci sono. Non abbiamo deleghe su questo. Non avete deleghe su questo. Allora, è chiarissimo, finora abbiamo una coincidenza di vedute che in questo caso io, se fossi al posto del nostro radioascoltatore, mi sentirei effettivamente penalizzato e mi chiederei perché Allora, visto che i rapporti sono buoni, visto che comunque siamo qui per dialogare, allora chiedo a Maria Mercurio, che è responsabile della comunicazione di Barclays Bank, se si tratta di una disattenzione, di un qualcosa che invece andrete a coprire, ecco, come ha visto e come vede lei questo problema visto dalla banca che lei rappresenta. Volentieri. Allora, le informazioni che ha dato BancoPosta sono corrette, quindi è vero, noi abbiamo un flusso attivo sia per i pagamenti per le carte di credito che per i prestiti personali. Oggi non è ancora attivo il sistema dei RID per i mutui. La motivazione dal nostro punto di vista è semplice, e cioè BancoPosta confermerà, loro non aderendo all'RNI, quindi al sistema dei pagamenti per le RID del sistema, diciamo, interbancario, questo non ci consente di avere il flusso che invece abbiamo regolarmente con tutte le altre banche per il pagamento attraverso RID. Quindi noi utilizziamo un sistema automatico per tutte le altre banche e con tutte le altre banche funziona. Per BancoPosta, non aderendo a questo tipo di convenzione, questa cosa non è automatica, quindi va, come è stato detto poco fa, aperto un flusso ad hoc sul quale noi stiamo lavorando, perché abbiamo già carte di credito e prestiti personali, perché i flussi di pagamento di questi due, diciamo, sia per le carte che per i prestiti, sono stati realizzati ad hoc perché c'era un traffico che giustificava la realizzazione imminente di questo. Ho capito, vediamo se traffico. Riassumo bene, Mercurio. Allora, lei dice questo: BancoPosta non aderisce a questo sistema interbancario, mentre invece ovviamente tra di noi, noi banche, questo lo facciamo. Quindi se si trattasse di accreditamento da banca a banca o domiciliazione da banca a banca non ci sarebbe problema, ma BancoPosta non aderisce, quindi effettivamente sì, è vero, noi non possiamo accettare questa domiciliazione, però ci stiamo lavorando, è così Mercurio? È corretto. Benissimo, allora io dico a questo punto chiedo la risposta di BancoPosta e vediamo poi che cosa ne pensa il nostro ascoltatore, che poi è il cliente, cioè il cittadino, quello che cosa può saperne, che cosa c'è dietro tutti questi traffici, vorrebbe tanto pagare in maniera più semplice e lineare, soprattutto oggi dove si dice che la telematica e internet sconfiggono la carta e invece, ahimè, talvolta è impossibilitato, anzi spesso è impossibilitato a fare. Allora Albano, prego. Sì, in effetti quello che dice l'autoressa è vero, noi non aderiamo al sistema interbancario, quindi diciamo che il nostro è un RID, chiamiamolo postale, bisogna fare dei piccoli interventi lato sistemi delle banche, come è stato fatto sicuramente da Buckley per le carte di credito e per i prestiti personali. Certo, poi lì dipende dalla banca, se lo fa indipendentemente dal numero dei RID che deve passare oppure aspetta che la cosa sia conveniente. Eccolo, questo è molto interessante quello che lei ha detto Albano, quindi prima di passare al nostro radioascoltatore vorrei ripassare la parola a Mercurio, ma l'agenzia e la singola filiale possono venire incontro al radioascoltatore, al cliente comunque della vostra banca e quindi non aspettare tempi magari lunghi della vostra convenzione oppure no, non possono? No, perché le RID vengono comunque processate dai sistemi. Il dottor Albano giustamente faceva riferimento a modifiche dei sistemi informativi che sono evidentemente per i mutui impegnative, quindi non sono interventi tecnicamente facili o veloci. Ho capito. Questo significa che lato banche, poi stiamo parlando di Barclays, ma direi che l'argomento può essere esteso genericamente, è evidente che quando l'istituto evidenzia un'esigenza significativa, chiaramente si muove. Questo benissimo. Anche perché va detto che, come nel nostro caso, noi abbiamo sia i mutui che i conti correnti, benissimo. Quindi è vero che lo facciamo quando si manifesta un'esigenza importante, che si è manifestata per carte e prestiti, ma che finora, a onor del vero, non si è manifestata per i mutui. Per i mutui, va benissimo. Ecco, io ringrazio ovviamente Mercurio di Barclays Bank e Albano, responsabile dei sistemi di pagamento BancoPosta. Ringrazio il nostro radioascoltatore, ahimè non c'è più purtroppo il tempo per una sua battuta finale, ma le risposte sono state esaurienti. Grazie in regia Carmelo Lauricella e in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.